va. Ma la bronospera mi si figlielli. Cara cara. Esci che ammazzo, esci. Tu penso tanto. Tu, allora sai che manchi, ma manco si muovi l'ago. Io dirò me, hola. Grazie. E io ribalto questa frequenza che mi serve. E allora, l'acqua si piena. Aspetta un attimo. Ma fa scuola di ballo, però. Ecco, a zero, Io stazionario qua non ne ho. Hola, hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sicuramente si piena dove c'è quella urgimento. E mi manda in corso la bobina, sicuramente. Quando non defluisce l'acqua, quando defluisce piano piano, che non piove più, allora torna a zero. Ho capito. Sicuramente sì. Sicuramente è entrata acqua. E ti fa quello scherzo lì, capito? Tutto qua. Sì, sei a mezzo cugino di Raghi Master. E mi racconterò lui prima di piazzarla. Ah, ma lo sai che mi sta dando una crisi e mezza questa. Ma quella già va bene la Game Master, dai. È una bella antenna. Vedi, lo so. Forse qui ce l'hanno di difetto perché si viene un leva. Una volta ne avevi una in campagna di Issimi. Siccome deve essere messa la salsina col vento, no? Beh, allora mi si è praticato un disattacco all'antenna, l'UBL e femmina. E me ne farà drugare in terra. Ma adesso tu cosa hai fatto? L'hai controllata tutta o che cosa? Che cosa? Quell'antenna lì adesso si è asciugata così, mi stavi dicendo. Quindi va meglio così. Adesso non è a stazionaria, fra. Ma l'Immacolata Concezione? Si è asciugata da sola, deve essere che ha defluito l'acqua da dove è entrata e non è più in corto la bobina. Mi manda in corto la bobina l'acqua, è per quello che mi servono le stazionarie. Beh, è normale. Se entra acqua lì, si fa quello scherzo lì, capito? Tutto qua, cappa. E cosa vuoi fare? Che va bene, dai, comunque ti ascolto bene, non c'è problema adesso. Non problem, tutto cappa di positivo, capito? Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com'è questa radio? Va bene? Alla grande. Ok, questo è il coso, come ti si chiama? Il 48, Claudio. Va bene, ottimo per la truppa, non ci stanno problemi. Oh, sono rientrato, attenzione, bravo Caligonia, si ricorda vita mia, che be. Attento Lugariello, se ascolti questa piccola modulazione, che be. Che be vita mia, che be, sono radio positivo, frate, che be. E beh, ce l'ho fra, che be. Allora Lucarie, tutto a posto? Mi ascolti, sì? Che hai detto in ordine? Ho detto mi ascolti, sì? Si affondò scala, ma sta tenendo l'aria, che è, vita via, che è. Con l'antenna di gomma, c'è l'antenna, non è l'antenna di gomma, la posizione che fai. Tu in che lo puni, pure un pezzo di fil di ferro, lo accordi e ci arrivi dappertutto. Allora, Cla, l'altra volta che io stavo modulando, un tempo fa, no? E praticamente ero senza antenna. Stavo uscendo solamente col PL. Col capo solo praticamente stavo uscendo, senza antenna, perché il capo era in terra. Sì, la posizione vuol dire tanto. È la stessa cosa anche in VU. Se hai una posizione, un punto alto, prendi tutti, non hai ostacoli. E così con un gibino, ma te si torna. Vabbè, ci via, anche se hai qualche ostacolo, già passi comunque. Passi comunque, invece con la V, con la U, no? È un casino. Più che con la UHF, da, è più bassata come frequenza. K. Ascolta Luca, Roberto Maestro ti ha mandato un link di qualcosa della sezione Radio Maturi, ma lo mandi sul Messenger, perché io sto seguendo un altro tipo di cosa, ma non va bene, forse non è quello. Se mi avete chiamato mi sono spostato. No, te lo mando su WhatsApp, aspetta, ce l'ho lì, c'è un casino, aspetta. Mandamelo su WhatsApp, perché io stavo seguendo l'altra scuola del coso, dell'Ari, ma è diverso da quel sito lì. Ma cosa ti vuoi pigliare? Patente radio amatoriale. Ma lascia verde. Capa capa, piche, frate. Questa volta me la voglio prendere questa pena di patente, mi sono rotto le scatole che. Se da voi non fai attività, né chi dai né hobby. Eh beh, un gusto, giusto per averla, capito? È una soddisfazione, voglio avere. Gaba gaba, ok. Oh, sto scendo con 5 watt, non di più, 5 watt, questo è omologato, quindi 5 watt modulati, andava e va più che bene. E io sto scendo un 2 watt adesso. Gaba gaba, andava, anche l'altro c'è bene, hai visto come c'è la macchina? Questo adesso conto e lo metto in funzione anche questo. Vediamo un po'. Qui si scende male. Ho detto questo è quello che c'aveva in macchina, il 68. Via. Però sulle prime sta dicendo male. Dove? Sta dicendo male come si è entrato poco fa, e se è cambiato il apparato. Perché era in FM, capito? Cappa. Questo è quello della macchina, e l'ho messo qua per farla andare, sennò se non le mette in funzione è un casino questa radio. Cos'hai detto, fra, scusa, che le batterie erano comprando qui un accidente, cos'hai detto? Ho detto che l'altro, un po' di tempo fa, stavo uscendo praticamente col capo solo sul tetto, perché era attaccato dall'antenna. Diciamo l'avevi detto, ma adesso già stai andando bene. L'antenna è brutta, per il prezzo che costa è una canonata, che se ne vuoi finire, no? È una è brutta, però, non mi piace questa antenna. Tu per la malestetica fai dire, ma che la mia sei più bella, mica fai a me la Smart Tech, non è bella, no? Però certo funziona un po' bene, ci sono 5 dB di differenza da una all'altra. Allora, con la Mantova 5 quanto ti arrivavo lì? Minimo 9,30. No, arrivi più forte con la Smart Tech. Oh. E io, la grande. Boh. Infatti stamattina quando sono uscito c'erano due cornacchi attaccate al radiale, meno male che c'è il radiale corti, altrimenti me l'avrebbe spezzato. Ah, io non ho più cornacchi, non prendo il cornacchio, non ve bacio. Solo che stamattina alle 6:30 sono passati gli storni, hanno praticamente fatto una nuvola nera, prosciugantiera mica. Rovinano l'antenna, se ne vanno sul radiale e fanno un danno della Madonna. Lo so, fra, e cosa ci vuoi fare? Pazienza, cosa vuoi che ti dica? Uia, cazzo, guardate, me ne sono uscito, entrate sui dubbi. Uia, è un casino, sono qui, vino. Lo so, forza ci vuole, io non ho più forza nel braccio. Oramai giù questo tutto, ci ho cerotto nella schiena, non sto bene, fra, un casino. Te l'ho detto, Rico, non ci vuole. Bisogna fare quel sistema che ho detto io. E vedi come ci entrano subito. E io vabbè, domani io avviso il duro, fai il dubbio che io non ne ho forza entrare. C'è quella guarnizione, è un casino. Vabbè, tu sei pratico, lo fai il dubbio. Cosa stavo dicendo, Tattalino? Ah, quindi adesso con quante parti stai uscendo, Tattalino? Adesso, con 2 watt sto uscendo, mi? 2 watt. Allora, con 2 watt con la Smart Tech mi arrivi quasi 9. Con la Mantova mi arrivi 7. figura di la differenza che vede. Ma lì Luca ci ha proprio subito, come ho cambiato il radio, capito? Poi questa nuova centrata, forza di Tomice, beh, l'altra sì funziona, però è anziana come radio, va bene, la usa una M, però se ti sposti in maniera laterale, ma in FM va bene, ma in maniera laterale sicuramente è appena appena scocciata, quindi ma non ha manco filtro, non c'ha niente, questa è completa, faccia anche filtro M, c'ha tutto. Va bene, va bene. Cazzo mi dovevi fare la vibe. Oggi ho fatto un accidente, non ho manco pranzato, niente, sono tutto il giorno appeso facendo questi lavori, ne ho approfittato, non ho già finito. Non ho finito, speriamo di, che domani sia bella giornata, perché c'era da intonacare tutto, stuccare, mettere il silicone, altrimenti si faceva gioco a bagno, come dicono alghi, gettata a bagno. Non capisco niente, no, ho capito niente Marco. Cioè, alternata e poi sei non so chi è che ti ha capito, nata lì. Non l'ho capito. Ma aspetta, va. Così va sempre bene. Sì, sì. Non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Io alle volte voglio batterlo a questo Marco Scotto, ma non ce la faccio. Io ci sento, niente, ma dice sempre lui. Sono andato, fermatemi dall'elenco. Marco, sembrava un cinese sassarese parlando. E rispondi la roba cinese, la cineseria. Proprio la cineseria, bravo Luca, Luca, bravissimo. Una cineseria che l'avete trovata, di fatto sapete come è un cinese. Vabbè, no. Andava, fra me te l'ho mandato su Google, su WhatsApp, controlla. E adesso le do un'occhiata, dai. E se non do un'occhiata, dai un'orata, è già mangiato tutto. Dai, ok, andar bene. Così dico, fratello, e ti dico la vita mia che è. Vabbè, sta andando, però ti arrivo, guarda un po'. 30, 40, 50, vai. 9.40, radio 5. Ehi, 9.40, addirittura, cazzo. Ciao, vado bene. Attali, ma da te quanto arrivo? Tu mi ascolti bene? Sì che ti ascolto bene, perché non ti ascolto bene. Se no, come faccio a dirti che sei drogato, cuocuomo? Tu sai? Ma siete tutti attaccati, cazzo, normalmente in rete a domandare il controllo. Siete tutti uno attaccato all'altro, cazzo. No, vabbè, buon Franco, ok, ma Natalino io lo sento basso, qua, Lo sento basso. Santiago 7 è radio bassa, ecco perché gli ho chiesto, magari in ricezione diceva bene, ma in trasmissione Natalino va male. Anche qua c'è Santiago 7, anche qua c'è Santiago 7, no, che mi arriva con l'altra antenna, ma è diversa, è una 7 ottavi, ma con la 5 ottavi mi arriva 7 anche a me, adesso ho cambiato di nuovo ad esempio, sono con la Mantova. Ma dice che esco anche basso di radio, boh, Chicci Luca mi pare drogato a me. Cioè Santiago 6 è a picchi di 7, la radio è bassa. Claro, è che non ti arriva il messaggio di WhatsApp, anzi il video, se te l'avrei mandato, non è che me ne invento le cose. Arrivate tutti bene, tranne che lui. No, lui, ma già, cioè, bisogna mandare il video, cazzo, non è che no, già lo so, va bene, però già esce, dai, per due volte già va bene. Questo invece è il 430 con 430 sempre quello a posto con l'MC60. E già stai uscendo bene. Ma basso pure di radio sono qua. E Natali, poco fa ti sentivo molto più forte. Hai abbassato qualcosa? Ah, boh, più forte. Mi pare strano, non ho già abbassato nulla io. Allora, perché eravamo in FM, allora quel microfono va a spingere di più in FM che in AM. Sì, si ma la radio spinge di più. Ho la radio, non so, Natali, però in FM ti ascoltavo molto meglio, capito? Vai, Franco, Franco. Cava, Natali, aspetta. ciao, spacco lo strumento qua. Questa è un'altra radio, Claudio. Vabbè, questo è il 48. Questo è quel 48 modificato, ma questo dà un bel di watt, che è un casino. Beh, è buono, segnale, vedi pieno, sì, anche qua, con questa radio. Franco. Elia. Ma la radio mia, bassa, Ma io, non è forte come il radio, Natali, è incomprensibile, però già ti ascolto lo stesso. Cazzo, prima mi disiano i fiovocchi. Aumenta la preamplificazione, no? Se sono a metà. E poi la maletta. Aumenta. Guarda, così sarà giù in escendi, e ci avvi. Così sta innescando, sì. Tanta classe, orbiamo bene questa radio, E come mai? Che alimentatore stai usando? Sono 30 ampere e mi si sta abbassando la luce. È strano. Molto, molto strano. Non lo so. Senta, questa radio dà più di 30 watt. E ci avete chiuso anche qua, sì. Allora, 20 watt, 20 watt, 30 watt, 40 watt, 50 watt, cazzo, e watt là, c'è la radio. Ora. E lo mettiamo come, no? E va bene così. Alla grande. Se come parlo se ne va la lancetta dei watt oltre i 10 su scala 100 addirittura. E come mai? Secondo me da un bel di watt questa cosa, non lo so, non lo sgaccio e se ti abbasso io, ecco qua 10 watt. Ma da te è sempre 9,20 anche con questa? Eh sì, 9,20 con picchi positivi, un bel alti c'hai. E infatti quando parlo se ne fa a fondo scala, no? È strano, molto strano. E come mai? C'ha più watt dell'altra questa qua. Allora se parli normale, proprio vedi quando parlo il coso dei watt picchia quasi a fondo scala. No, ma è provato questo, ora, qui c'è picchi negativi, sicuramente, vero, picchi negativi c'ho così. No, i picchi sono positivi, lascia vedere una cosa. Claudio. Ehi, guarda Natalizia, c'ho picchi negativi. Non registro picchi. Questo è uno smitter del cavolo, non c'ho lo smitter analogico. Guarda la radio adesso com'è. Meglio, alla grande, va meglio. Io non so quanti volte sta dando questa. Aspetta, rimetto com'era. Ecco qua, gappa. No, va bene, Natalia, è più alta, non so cosa hai fatto. È un passaggio, Natalia, che vedo un po', come la modulazione. Guarda un po' com'è adesso la modulazione. Va bene, così ti ascolto bene, sì. Ehi, ho cambiato microfono, by foot. Adesso cosa stai utilizzando di microfono? MB più 4. Adesso va bene. Cazzo, chitarra, anche questa va bene, dai, meglio così. E mi sa che adesso uso questa. Va meglio il più 4, mi Natali, del più 3, spinge di più. Io adesso l'ammazzo pure, guarda. Adesso è a metà, guarda un po'. Ma spinge lo stesso, spinge più dell'Eterne più 3. Però come modulazione l'Eterne più 3 è più bella, capito? Però questa c'ha più spinta. Adesso faccio sentire il mio, aspetta. KKK, bella questa radio, questa è la MC50. E Meduro Mattesi, quello che ha modificato l'amico nostro. Yes, yes, l'ha fatto diventare un 60, l'ha fatto un circuitino, ma è una canonata. Springer che è una meraviglia, va bene, sto usando il 430 numero 2 con l'MC50 e va veramente bene. E già si sente, già è di lusso. Quell'MC50 pari un 60 perché amplifica. Il 50 non è fatto per amplificare, non ha circuito dentro. Era vuoto. Ma tutto di mescia nuovo, Fabrizio, gli ha fatto un circuitino, ma è una canonata, io non l'ho mai aperto la verità, per vedere, così giusto per fare una cultura, ma l'ho provato, è bello schermato, con un capo nuovo, bello. Quindi funziona bene, ma mi sono messo in cuffia, non noto differenza dal 60 al 50, quindi sono sicuramente uguali. Sì, uguali sono, perché quello è Ponte, è la capsula che c'ha, poi in più le amplifichi è logico che diventa un 60, è la capsula buona che va ai apparecchi. Ma bello, anche esteticamente, infatti ho detto Fabrizio, va nuovo, va bene. Capo di Rosmetro, aiuto Franco, facci sognare, dici qualcosa, su. No, ce ne sono stasera, Roberto Quadrato che fine ha fatto. Attento, Roberto Rotondo. Questo è l'MB più 4, Claudio, guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. Come Natalino stai uscendo. Mira Natalino, la stessa modulazione di Franco, senti che bella. Via, già lo so. KK, MB più battero so este gusto, capito? Tutto è qua. Beh, la prolunga ce l'ho anche io, non è un problema. Ma non ne sto usando, capito? Ma se io non la uso non ci arriva l'apparato, che è troppo corto il filo suo originale, perché questo non è toccato il microfono, era in scatola e non uno. Allora io gli ho cambiato tutto il filo, tutta la spirale, gli ho messo quel filo a spirare, però è un bel morbido, capito? Lo allunghi dove vuoi, non è di quei fili rigidi che non riesci a tirare. Sì, a Rousseau, umanissimo è l'originale, io ho lasciato questo qui e boh, cosa fai lì a tirarla alla lunga? Se un giorno lo voglio vendere, almeno è originale, capito? E allora, quello che dico io è, meglio mi ascolti con questo. No, questo invece è il mio, MB più 5, originale, mai toccato col Galaxy Saturn Echo, come va? Benissimo. Sempre senza sei toccato nulla, mi Natali, originale, come mamma l'ha fatto. Dammi un rapporto, Claudio, con questa radio, com'è? La massa delle varia. Mi sentite, sì? Sì, il rapporto, la massa delle varia. Ma dai, mi allontano un attimo, Claudio, e riprendo subito. Ehi, hai detto, il rapporto alla massa delle varia, ottimo per la truppa. Esce bene, no, Natali, col Galaxy, anche il più 5, io di solito uso il più 3. No, già va bene, cazzettina, cosa ti volevo dire? Io li ho provati tutti. Quello che andava meglio sul Galaxy era lo Shure. Quello lì era una belva. Si mangiava l'MB più 3, cioè più 4, il Turner più 3, quello nero, il Turner più 2 si mangiava. Il Turner e il coso, lo Shure andava meglio di tutti sul Galaxy Saturn Echo, quello che avevo io. Vanno bene, no, ma anche il Saletta va bene con questa radio, vanno bene tutti i microfoni, Galaxy è una canonata come radio, veramente va bene. Ok, adesso comuto di nuovo con l'altro, una gara. lui Franca, lo stavo aspettando a Franco oggi se mi telefonava andarcene a pescare, invece mi tagliando erba. E se te l'ho detto, aspetta che abbasso, io di solito tengo così, questo gli va bene. L'ho chiamato anche io, se veniva a darmi una mano, invece era in campagna stamattina, capito? O dopo pranzo, va. Ma già viene domani mattina. Che ragazza. Io pensavo che mi telefonasse con la scusa che stava facendo bella giornata, andarsene a prendere un po' di seppie e calamari. Veramente la notte, beh, che ha giocato strage di seppie. Già me lo ricordo. Bei tempi. Lo so. Kappa. Ecco, a Cacedusaggio non mi ha fatto bigli due saraghi da un chiruruno, minimo. Con l'accusa che lo goffo non va via. Un attimo. Oia Gianca. La gamba ti fa male. Poi tutto una frase male, in China anche ha tutto una frase male. Dopo la vecchiaia carrogna là. Cazzo, una carrogna, ma mamma mia come sto. Ci conferma, conferma. Sono le sette sono gappa, vediamo cos'è arrivato su, non so cos'è WhatsApp, no? Pigliamo, deixa vedere. Messaggio, non vola, fa. Ehi, non so neanche come ti parlo, non devi catturare niente, vabbè dai, io me ne faccio in quel retti che dico la cosa, alle prossime. Salutami a Franco quando rientra. Ehi, dai, ci aggiorniamo, ciao, buona serata con tutto, grazie per le chiacchiere, anche io rimango in quel retti, senza qualcuno, sentiamo dopo, ok, ciao. Qui passa asciutta per Rorre. Beh, Natalino ha chiuso. Ha chiuso a Natalino. Sicuramente aveva cenato e poi si deve fare anche il surino. Ehi, Cappa del Roggero. Va bene. Quindi va bene quel gala che si stava provando, sì. Alla grande, fortissimo, va benissimo. Cazzo, una bestia, ecco là, quello che adesso. Chi è? E gava. Eia, cazzo, avevo dovuto smontare, mi sono spaccate le funi del freno a mano della 147, mi ha toccato cambiare le funi, ogni casino, te ne dico. E già lo so, c'è un casino. Io l'ho vista quando hanno cambiato, gli ho messo tutta la parte frenante nuova, perché quando l'ho presa quella macchina ferma 2 anni, a Lovagno, era del mio dirigente, ed era praticamente tutta la parte frenante marcia, freno a mano non tirava, era tutto inchiodato, quindi hanno messo tutto l'impianto nuovo dei freni, capito? Il signor Gagino ha saccato i sigilli. Allora, per togliere le funi ho dovuto sollevarla con 2 cavalletti, ma cavalletti di quelli buoni, non cavalletti, sennò non vengono su tutta la macchina. E ho messo i 2 cavalletti, il clicker l'ho sollevata completamente. Ho ho staccato la cosa che mi ha dato più fastidio è il coso, il comprimarmizza. Ah, mamma mia, tra Ziru, guarda, non te ne dico, se l'alluminio, secondo me lo tocchi, lo pieghi. Lo so, l'ho vista sul ponte facendola, proprio completamente tutto il sistema franante nuovo, eh. Le cinghie, i tiranti, le basi, tutti i PM, tutto nuovo avevano messo. Hanno speso un patrimonio, mi sembra, sui 700-800 euro, forse anche di più, dall'Alfa, da cosa, da Franco Rossetti. Una cosa allucinante, questo però tanti anni fa, eh. E poi basta, se fate, guarda, quell'impianto lì è tutto nuovo, poi avevo cambiato solo i dischi, le pastiglie, anteriori e posteriori, tutte e quattro. E un sacco di manutenzione, le macchine ci vuole, porca miseria. Allora, nella mia ho cambiato io, praticamente le pastiglie davanti, le pastiglie di dietro, dischi di dietro, i dischi anteriori e i dischi posteriori, le funi del freno a mano, perché una l'ha spezzata, poi come ho tirato si è spezzata anche l'altra, quindi ho cambiato anche quello, cambio d'olio, filtro gasolio, tutto il tagliato, tutto le cose, la, come si chiama, tutta nella zona della barra stabilizzatrice ho cambiato tutto l'avantreno. Tutto nuovo c'ho io, compresemi, messo a poco, quattro gomme termiche, perché adesso si possono montare, capito, 360 euro di piso, la guida passata. Poi due mesi fa ho fatto fare ammortizzatori davanti, due braccetti, due cuscinetti sempre anteriori, basta, anche 500 euro tiro, perché la macchina è a posto, è nuova, fatta verniciare, quindi me la sono tenuta, tanto andare a cambiare, spendere un sacco di soldi, motore è buono, quindi a giudizio la metto, le faccio le cose che ci sono da fare, fatto anch'io tagliando tutto, alla revisione ho fatto la scaduta. E vabbè, cazzo, domani mi scade la patente a me, adesso la prossima settimana mi prenoto e devo andare anche a fare di nuovo la patente. Il viaggio di Asprune ti vado, nell'utilizzo, dove sono andato io, 60, 70 euro e ti fanno tutto, visite e tutto. Sì, io vado sempre in via dei Mille, vado sempre alla scuola in via dei Mille, quindi adesso telefonerò, mi prenoto, tanto vabbè, non ci andrò al lupo, se mi fermo già mi è scaduta, ma sono accorto, ma non devo andare da nessuna parte in questi giorni, quindi lunedì mi prenoto subito, immediatamente, sicuramente me lo fanno subito lunedì o martedì stesso. Ecco, e mi sa che c'hai 60 giorni di tempo comunque, se non 90, una cosa del genere, non mi ricordo male. Registrato il break, va Rio, la buonasera. Sì, ciao Franco, ciao Claudio, c'è qualche altro? No. La patente, mi sembra che le hanno posticipate al 31-12, come le revisioni. Quindi anche se è scaduta posso circolare, vabbè, ma mi prenoto, me la faccio, non so mai, trovi qualche imbecille e ti mette in difficoltà. Sì, meglio fare, tanto fare da fare, per cui non ti preoccupare. Ok, e beh, che si dice di bello, cosa abbiamo combinato così? Intanto Marco, stavamo facendo due prove, questo è l'MC50, stavamo facendo due prove, anche lui, due prove di microfono, eccetera, ma niente di che, va bene. No, se non me lo dice bene, Marco si riconosce. Sembrava un 60. E beh, questo rimbalzo microfono. Fra. E allora, Robè, me l'ha mandato quel sito Luca, Allora guardalo con attenzione, prima guarda, ti dico, parti da giù, dalla 22esima, dove ci sono le normative, ti guardo una lezione, l'hai visto, se ti capita, tanto dura una mezz'oretta, tre quarti d'oretta, lo fai così ogni tanto, per dire, se ne fai 10 minuti adesso, poi tra un'ora, tra due ore, quando ne ti altri 10 minuti, in modo che non sia stato, l'importante è che tieni un ritmo, fra, se vi consiglio, parti da adesso sino all'aprile, quando ci saranno le cose, le tre leggi, non leggi, ti ascolti più che leggi, è più facile ascoltare che leggere, e poi ci sono i quiz, finali. E quando hai assimilato un po' di roba, tenete su internet, c'è scritto quiz per radioamatori, ce ne sono quanti ne vuoi di molte delle sezioni aree, però inizia a dare quelle normative di quel tipo e ti rendi conto quanto è facile e comprensibile fatto da quel tipo. Ma infatti voglio cominciare proprio dalle normative, anche perché resistente tutta quella roba la so. Vabbè, non sono solo resistente, ci sono un sacco di argomenti abbastanza specifici. Comunque tu le normative così ti rendi conto che tipo di comunicazione come insegnante c'ha questo, è veramente bravo. Ti ripeto, io ne ho visto tanti, questo è proprio bravo, molto chiaro, elementare, spiegando le cose, ti fa esempi molto molto semplici. Ed è molto preparato, tra parentesi. Ok, vediamo se Claudio ha fuso il microfono, avanti Claudio. Ha detto questo è l'MC50, fuso il microfono. Forse sta commozzando, forse lo sta piazzando. No, mi ha chiamato l'aria, già sono qua, già mi sto ascoltando, ogni tanto mi sposto. Ce l'ho commozzato, oggi commozzando da un fra. Adesso tutte e tre i K hanno tutte e tre due MC60 e un MC50 che praticamente è come il 60, non intendi a pompa. Guarda, allora, ti posso dire, non si nota la differenza. Ripeto, non ti, se il circuito è uguale a quello del 60 e poi sai chi l'ha fatto, non ci sono dubbi, capito? È così, non è venuto da là. È passato a proposito, Mecla, prima di chiudere verso le 5:30, poi l'ho fatto salire nel tetto e mi ha dato anche qualche consiglietto lui, a vedere, più occhi che guardano è meglio che guardarne due da soli. Beh certo, io glielo conosco il tuo testo, però ha dato un'occhiata anche lui, va bene, poi sicuramente ci vedremo anche con Marco, insomma, stabiliamo che cosa fare, dai, per montare con l'antenna lì, va bene. Anzi, ha preso quel pacchettino che gli ho lasciato, molto bene, sono contento. Ha detto a vedere che sei esagerato, dici pure le batterie, il portabatterie di ricca, ci è rimasto nel senso male, sorpreso. E vabbè, le ha messo anche quello e metto un po' civile, magari serve di nuovo a me e a te non ne ha. È meglio che le tenga lui quelle cose, no? E che non ci aveva, io non so, i valori che lui usa delle resistenze, transistore, diodi, condensatori, cosa ne so lui? Se no avrei fatto un po' di uno, un po' di uno, un po' di uno, un po' di uno. E un pacchetto di cingomma potevi mettere, così quando sto lavorando mastica qualcosa. Ehi, Bustino, si dice che non masticheggia, sta sempre masticchiando. Ehi, ok, lasciamo un secondo di bianco, vediamo se vuole entrare qualcuno. Avanti, su 10 sono, riprendi tu Franco. Vai Franco. Adesso si è allontanato Franco, sicuramente l'ha chiamato Lucia. Avete fatto prove su che cosa? A Piazza dei Segni, tra o a casa di Marco? No, stamattina ci avevo preso un caffè, poi mi ha fatto vedere i collegamenti via satellite, è bellissimo, sto computerizzato, molto bello, c'è un grandissimo impianto in macchina. No, così stavamo scherzando con un po' di microfoni, un paio di radio che stava provando poco fa, due prove così giuste, abbiamo fatto in banda laterale, in FM, in AM, tutto a posto, niente di particolare, dai. No, sono contento che ogni tanto anche lui entri qua, poi qualche notizia, qualche informazione tecnica, è sempre piacere ascoltarla. Ok, Gianfranco, ho sentito? No, non ho sentito per niente, la verità io sono entrato tardi, perché ero fuori che sto preparando quel lavoro che ne abbiamo già parlato, quelle canalizzazioni della veranda, eccetera, infatti domani viene anche Franco a darmi una mano, perché non c'ho forza ad entrare quei tubi a pressione, e Cucucci mi ha mandato i tubi anziché quelli a tangit, con la guarnizione a incasso, dice che sono più sicuri, insomma ci vuole una forza a metterli dentro, ho provato col sapone, adesso già sarà Franco domani. Allora, quelli lì si aspettano a pizzicare la guarnizione, sono eccezionali perché entri piano piano, li bagni con un po' di grasso, leggero leggero, col dito, restano lusci lusci. Guardate che lo metti il dito, se lo pizzichi poi ti perde. Oh, va bene. Va bene, va bene, domani facciamo queste cose. Vediamo un po', tanto domani è una bella giornata, anche forse anche domenica se mi dà il tempo, perché una volta che poi metto tutto i fori dell'uscita dal terrazzo, tutto intonacato e poi siliconato tutto il capitolo, che sennò mi perde. Sì, sì, metti come ti perde. No, anche silicone sta mettendo. Vabbè, ho tagliato le tegole che ci sono e ho messo i tubi dentro, siccome i tubi sono leggermente più piccoli, capito? Perché quelle non è che sono come le tegole. E allora devo mettere prima il cemento, mettere il tubo dentro, poi una volta che si è asciugato il cemento devo mettere il coso, il silicone. Capito? Metto il silicone, non si sa mai, altrimenti mi macchia la facciata. Ok, non mettere proprio silicone, metti Sikaflex, perché il silicone là sarà bisogno. Ehi, quello che mi hai fatto prendere tu la regione, per quello l'ho preso, Sikaflex. Quello li prendi. Comunque domenica da mezzogiorno in poi piove, sino a mezzogiorno è buono, dai, non piove. Domani invece è bello, spero. Domani è bello tutta la giornata, veramente è molto sole, giusto qualche nuvola in transito, 18 gradi di temperatura a mezzogiorno. Buono, buono, domani mattina subito faccio questa cosa, mi richiudo così asciuga tutto il giorno e poi domenica se piove si abbiglia in culo. E allora ci godiamo questi ultimi periodi prima dell'inverno, che poi verso da dicembre in poi comincia a far freddo, speriamo che non sia troppo esagerato e che non sia quegli inverni piovosi di continuo che mi gira troppo il cazzo. Scusate, ma c'avevo una bassa in corso e non ho potuto riprendere. No, avrà, non ti preoccupare, anda bene, anda bene. E questo qua cos'è? Il 43 grande, il piccolo o il 14? No, no, beh, l'MC50 ce l'ho sul 43, questo è il 43 mio, capito, il numero 1. Il 43 numero 2 c'è l'altro MC60. E poi il coso sul 140 l'hai messo, l'MC50? Sì, sì, adesso sto usando l'MC50 col 140. È quello che ti volevo dire, quindi 140 con l'MC50 modificato. Esatto, l'MC50 ha fatto a 60 turbo, mentre sugli altri 2430 c'è il 60 originale. No, no, perfetta, nessuna imperfezione radio, ottima per la truppa, come dicevi tu, sì. Sì, ottima per la truppa, tutto il resto è noia. Vai Franco. Eglia. Io sto utilizzando invece un 68. Sempre con 60. No, negativo, è un MB più 4 questo, roba. Ma tu ci avevi anche il 60 o te lo sei venduto? Io c'ho il 60, io c'ho tutto. E perché non usi il 60 allora? Perché ogni tanto devo farla funzionare questa radio, altrimenti si rovina. Ma scusa, è un K68 o un A68, non ho capito? Sto utilizzando adesso il 68. 68 con l'MB più 4. Ma ti ho detto, è un K68 o un ALAN68, quello che volevo capire. K68 e MC60. Ah, allora io ci volevo dire, infatti. Come non detto, ok, lasciamo un attimino di bianco ancora, se qualcuno vuole entrare, avanti chi vuole entrare, sono Claudio il Mike. Non ve ne sono, questo è l'MC60 col 430. Ma è migliorato, ci credi là? Vero, anche a me, io mi sono ascoltato. Allora è più naturale la voce, bella anche questa, a me piace più l'altro, ci credi, più neutra come la modulazione. Ma questa cos'è, troppo forte o come? No, i livelli sono uguali, almeno io ti sto ascoltando a orecchie, non sto guardando nessun altro strumento, però forse l'altro era più tua la voce, molto simile a me, però forse l'altro era, forse questo amplifica un po' di più, non lo so, se si sente più qualcosa di contorno, però l'altra forse ho l'impressione mia, non lo so se mai ti sei spostato di distanza, cosa, forse l'altra era un po' più chiara. Ti ricordano bene, lo sai, il 140 c'è lo slider, quindi non è che può amplificare più di tanto. Qua nel 430 c'è il potenziometro, ce l'ho a 2, capito? Ce l'ho a 2, quindi è di solito l'ho sempre usato così, ho 430, tipo il 440, 1.5, 1.8, capito, come Mickey Gay. Quindi può darsi che spinga leggermente di più, però come tonalità mi interessa a me, sono uguali, no? Sì, quasi impercettibile, claro. E proprio deve avere l'orecchio attento, abituato, dai, a sentire differente. Sono quasi identici. Quello è importante, almeno, almeno va bene, ci do tutte e tre sotto, sotto coso, sotto microfono serio. C'ho anche la Lunes, ma non... Noi adesso vediamo se fa la riconnessione a Isebru, non so, vediamo. Avanti, fa, riprendi. L'Adonis, un bel microfono l'Adonis. Sì, sì. Un bel microfono, tutto lì. No, ma anche questo, questo è il microfono normale suo, è là. Va. Se vuoi l'Adonis, metterò l'Adonis, la V508, già pronto, testato Kenwood, col suo carretto originale Kenwood, MLR-MC60, l'ha già pagato €140 questo microfono, nuovo nuovo. Ma vai, non lo usi? No, non lo uso perché a me no, non piace esteticamente, capito? No, esce molto bene, la verità, esce molto molto bene, però esteticamente a me così non mi piace, è flessibile, tanto è vero che adesso ce li ho, c'ho le MC60. Ah, flessibile, ho capito qual è. Chi piace, a me non piace, è flessibile, è come le MC80, a me 80, 85, così, però c'ha due uscite, capito, il microfono c'ha due uscite, una Kenwood e una Icom, quindi, oppure puoi fare due uscite Kenwood e usare un microfono con due radio, io l'avevo preso per quello, per usare praticamente un microfono con tutte e due i capo, invece esteticamente non mi piace, è bello, è a chi piace, a me no, piace, mi piace più il 60. Io ho le MC60 della Trio. E quello vecchio che ti avevo dato io, sì, vanno bene, quelle adesso non si trovano più, adesso vendono solo MC60, no, ma io ne ho comprato uno che me l'ha fatto arrivare Roberto, €85 spedito, ed è nuovo, nuovo, è perfetto. Io ne avevo visto un altro sul sito Radio Amatori, c'era un MC60, ne voleva €100, poi ne avevo trovato un altro €80. No, me l'ha trovato Roberto dalla Mascar, un'azienda storica, €85 spedito, ed è questo che sto usando, nuovo, nuovo, nuovo, perfetto, va bene, funziona bene, però ripeto, se c'è qualcuno che le piace la Donis, la V508, che è quello piccolo, non ho la ragione, che vende, e loro in cambio mi dà l'MC60. Ci perdo perché il mio è nuovo, comprato nuovo, e c'ha il cavetto suo originale, perché c'ha il clip, capito? È clippato, esce clippato poi col connettore a 8, alimentato dalla, direttamente il connettore alimentato dalla radio. Però a me esteticamente non mi piace. Vai Roberto. Prova ad adattarlo lui a ISU a 757 a vedere come esce. No, c'è bisogno di adattare, fai un altro carretto, ne lasci uno Kenwood e quello Icom, anziché Icom lo fai diventare IAESU, capito? Non è detto che devi usare per forza Icom, un'uscita la usi col K e l'altro lo puoi usare anche con IAESU, IAESU, Icom, insomma, puoi fare quello che ti piace, ma l'ho detto già fatto. Ma io ho quello grande, la V908, però mi devo attentare a equalizzarlo bene, quello è troppo delicato, basta lo tocchi un peluzzino, si cambia completamente la modulazione. Okay, questo spingimi, questo sotto è come le MC80, addirittura c'ha il primerino sotto, no? C'ha due posizioni, SSB ed FM, io lo uso sempre in SSB perché spinge di più. E poi c'ha praticamente il trimerino che puoi aumentare anche l'amplificazione dal microfono. Infatti io l'ho messo a metà perché amplifica un casino, è un bel forte, più forte di questa. Però ripeto, esteticamente a me non piace come microfono. È tutto cromato, bello, nero, molto bello sicuramente, ma a me non piace, a me piace più il 60. Ce l'ho avuto anch'io, ti ricordi, avevamo fatto scambio e tu mi hai dato il 60, questo che c'ho io, che è tanta ne viraggio, da 2005. No, vanno bene, 60 io quello che c'ho è lo stesso, c'ho un sacco di anni. Poi quello prima ancora di questo l'avevo dato a Franco che ce l'ha ancora, capito? Quindi vanno bene, 60 vanno benissimo, bisogna usarli bene. Vai Franco. Buonasera a tutti. KK, chi è che sa che c'è qualcuno che stava chiamando. Pronti? Buonasera a tutti e buona cena. Ciao Gianfranco, buonasera, ben ascoltato. Compagnia mia di Roberto e di Claudio. Sì, sono entrato solo per salutare perché sto chiudendo tutto. Ci sentiamo domani. Ciao. Ti prendo io, ciao Gianfranco, ben sentito, dai, anche io tra poco vado a mangiare, poi se qualcuno c'è dopo ci sentiamo, se no se coincide domani Gianfranco, vai Claudio. Ciao Gianfri, buona serata, buon tutto, grazie per essere entrato a salutarci, vai Fra. Ciao Gianfranco, buon carica, buon tutto, e ce la riascoltare prossime, io faccio un altro paio di passaggi e dopo chiudo. Noi qua rimaniamo d'accordo così, ok? Via, va bene, ti aspetto. Non problema, va bene, ci vediamo domani mattina. Vai Roberto. Via, ok. Che si dice di altro, altri argomenti, fatemi venire il coso, in mente qualcosa. Domani io ci sono sino alle 9:30, anche poi devo andare da quella persona che ti ho detto stamattina a ritirarmi una cosa. No, domani non esco, Robby. Domani devo finire questo lavoro perché se piove domenica sono una merda. Devo finire per forza questi canali, questa cosa.